24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno, eccoci cari ascoltatori alle 7:21 minuti. È ritornato anche il nostro alpino Peter Bescapè in regia. È ritornato anche il nostro Diego Rovelli in redazione. E vabbè, insomma, noi eravamo qua il 1° maggio, giusto per informarvi. Siamo in diretta allora, in diretta fino alle 9 anche oggi. Chi avremo ospite? Beh, parleremo di questo sciopero fiscale o ribellione fiscale proclamata soprattutto dalla Lega e da tutti i sindaci della Lega, da molti sindaci della Lega, nei confronti di quello che Maroni, lo avete sentito nel giornale radio, ha definito il pizzo di Stato, l'IMU, sul quale ha detto cadrà il governo Monti. Allora, è giusta o no questa ribellione fiscale che promuovono i sindaci, soprattutto della Lega, a dire non si deve pagare, cari cittadini, l'IMU? Ne parleremo alle 8:30, insomma, di questioni di ribellione fiscale. Avremo ospite anche alle 8:20 un avvocato, l'avvocato di Napoli Gennaro De Falco. È diventato abbastanza celebre in questi giorni perché ha deciso: non difenderò più Equitalia, io che sono sempre stato avvocato di Equitalia in tante cause. Perché? Perché non ce la faccio più a difendere questo accanimento nei confronti dei cittadini. Insomma, i cittadini e le tasse, di questo parliamo oggi. Vi ricordo che siamo anche su Twitter, ci trovate, @Alino Milan sono io e @24mattino è la trasmissione. C'è anche @BescapePeter, lo trovate così. Se avete un po' di coraggio nel tuffarvi nello scrivere sulla tastiera. In ogni caso, da cosa partiamo oggi? Dai giornali in edicola? Beh, più o meno. Insomma, in questo mercoledì 2 maggio mi sento un po' spogliato e nudo. Non ci sono i giornali, sentite, ho dei fogli di carta davanti a me e ieri 1° maggio i giornalisti da carta stampata non lavoravano e quindi non troverete i giornali in edicola al vostro rientro, dal vostro comodo ponte mentre state andando nei posti di lavoro. E allora vi do solo qualche spunto da che cosa? Beh, dai siti online. Ho stampato qualche apertura di siti online che sono rimaste aggiornate, sono aggiornate questa mattina. Per esempio vediamo il sole24ore.com, la stampata della prima pagina: Napolitano, la politica, vari la riforma, Fornero, manca il lavoro e torna in America Occupy Wall Street. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore. C'è anche un interessante, due interessanti articoli che vi voglio segnalare. Intanto l'intervista a Profumo, Alessandro Profumo, che dice: sarò il nuovo regista del Monte Paschi Siena, l'obiettivo è diventare la migliore banca italiana. Parla dunque il neopresidente in questa intervista, Cesare Peruzzi, che trovate sul sito online. Il ruolo che mi è stato assegnato, cioè quello di regista, mi piace veramente. Dunque torna in scena Alessandro Profumo dopo la vicenda, dopo essere uscito qualche anno fa da Unicredit. E però certo c'è soprattutto in primo piano la tensione anche politica. Due giorni fa la questione dell'IMU, la questione di Monti che si è detto molto adirato per l'ICI che non doveva essere tolta, e questo ha creato e suscitato problematiche politiche anche e soprattutto con il Popolo della Libertà, con l'ex governo Berlusconi. Il nirvana è finito, questa è stata l'espressione usata da Mario Monti, no? Cioè questo rifiuto, questa visione anestetizzata, questo rifiuto della realtà, il nirvana è finito, e si riferiva appunto al fatto che l'ICI non andava tolta e quindi questo governo è stato obbligato a mettere la tanto contestata IMU. Mentre le aperture degli altri siti, il Corriere della Sera, Corriere.it, l'apertura è su Obama che nella notte a sorpresa è volato a Kabul. Proprio un anno fa veniva ucciso Osama Bin Laden in Pakistan. Obama vola a sorpresa a Kabul, gli USA altri 10 anni in Afghanistan. La seconda notizia di politica interna: Bossi, mi ricandido alla segreteria. Questo è anche un altro tema molto, molto interessante. Poi c'è il concertone, 500.000 in piazza, il classico concertone del 1° maggio. La Repubblica invece apre, la Repubblica.it, su Obama a sorpresa in Afghanistan e i talebani attaccano Kabul. E poi Napolitano, lavoro per i giovani, mentre Susanna Camusso, leader CGIL, dice altri tecnici, scelta stravagante, si riferisce alla scelta di Bondi, il super tecnico che commissaria i tecnici per fare, a me è venuta spontanea mettere su Twitter, per una, la super cazzola, come definisco io la Spendi Review, ci voleva un super tecnico, per la super cazzola un super tecnico. In ogni caso, insomma, il super tecnico per la Spendi Review. Il giornale.it apre su 1 maggio ostaggio dei centri sociali, ci sono state rissi, fischi e contestazioni, mette in primo piano questo aspetto il giornale, poi l'annuncio del senatore Bossi, mi ricandido alla segreteria, lo faccio per la gente. E sulla vicenda tagli, l'ultima beffa di Monti, il consulente per Italia Giuliano Amato, pensione 29.000 euro al mese. Il Fatto Quotidiano apre su capitali svizzeri, adesso Monti dice sì, il fattoquotidiano.it. Ovviamente c'è anche una vicenda Equitalia, no grazie, i comuni che si tolgono da Equitalia. Per La Stampa, lastampa.it, napolitano, lavoro per i giovani, questo è il titolo di apertura, ma c'è anche la visita di Obama in Afghanistan in primo piano, e Bossi che gela Maroni, mi ricandido alla segreteria della Lega, mentre l'Unità apre sul concertone, domina Caparezza, la piazza balla, e anche però Obama sorpresa in Afghanistan, accordo con Karzai fino al 2024. Questa è l'apertura di alcuni dei siti, ma noi, visto che la rassegna stampa la faremo in modo un po' diverso oggi, ho invitato due colleghi, il vice direttore di Panorama, il vice direttore dell'Unità, che saranno con noi tra poco, dopo la pubblicità del meteo, per commentare quelle che sono le notizie di questi giorni. Così, se siete stati nel pontone sotto l'acqua, siete ora tornati, andate al lavoro e ascolterete un po' di commenti su quello che è successo in questi giorni. 24 mattino. E allora eccoci alle 7:32 minuti, come detto non ci sono i giornali cartacei, di carta, oggi in edicola essendo il 2 maggio e quindi ieri 1 maggio redazioni chiuse, ma trovate qualcosa online, i titoli di apertura, le notizie le ho lette di come aprono i quotidiani online. Vogliamo però fare due chiacchiere allora sulle notizie del giorno, notizie che poi tratteremo anche più avanti noi, con il vice direttore di Panorama Maurizio Tortorella. Buongiorno, ciao Maurizio e ben svegliato. Ciao Alessandro e buongiorno a tutti. Saluto anche il vice direttore dell'Unità Rinaldo Gianola, buongiorno e Rinaldo anche a te. Buona giornata a voi. Allora, io vorrei, ci sono tante notizie, alcuni giornali online aprono sulla visita sorpresa di Obama che nella notte è andato in Afghanistan, a un anno dall'uccisione di Osama Bin Laden in Pakistan, però i temi più sentiti dagli italiani mi sembrano due, le tasse e il lavoro. Allora, Maurizio Tortorella, partirei da questo, sulle tasse, la Lega prevede e dice facciamo lo sciopero con tutti i sindaci dell'IMU, definito da Maroni pizzo di Stato, e Monti si arrabbia, dice guardate che il nirvana è finito, tradotto l'ICI non andava tolta, quindi finiamola di fare queste mistificazioni. Allora, su questo tema, intanto è condivisibile o no questa posizione della Lega che faceva parte di un governo che l'ICI l'ha tolta, Maurizio? Allora, guarda, ieri anche Bonanni ha detto via l'IMU dalla prima casa, quindi evidentemente è un pensiero trasversale. Beh, la tassa più odiata dagli italiani, da tutti, insomma. Indubbiamente la mossa sorpresa che consentì poi a Berlusconi di vincere le ultime elezioni politiche fu un atto sicuramente importante dal punto di vista mediatico, importantissimo dal punto di vista del taglio che il governo avrebbe voluto dare alla sua politica fiscale, alla sua politica economica, probabilmente fu un passo arrischiato, diciamo così, visti i conti pubblici di questo paese. Sicuramente adesso non è il momento di tornare indietro sull'IMU, purtroppo, non è il momento di mollare sulle tasse, anche se è un dato di fatto inequivocabile sotto gli occhi di tutti che di troppe tasse questo paese e forse anche l'Europa in questo periodo sta rischiando molto, perché è indubbio, soprattutto per quel che riguarda l'Italia, che la pressione fiscale è arrivata al 45% secondo i dati ufficiali e oltre il 50% secondo altre stime, è indubbiamente un livello eccessivo che ha effetti, come dicono tutti, indubbiamente recessivi e quindi non serve a farci uscire dalla crisi, ma anzi rischia di farci peggiorare. No, ma poi noi che raccogliamo da giorni sulla mail, certo, disperati mai, e Radio24.it con Oscar Giannino, Sebastiano Barisoni, raccontiamo anche le difficoltà di tutti gli imprenditori, certo, non solo gli imprenditori, che purtroppo alcuni arrivano anche a gesti estremi, quelli di togliersi la vita per questa enorme pressione fiscale. Certo che però c'è da capire quale sia la via d'uscita. Può essere quella della Lega, cioè una obiezione fiscale, quella proposta dalla Lega, un'obiezione fiscale, a dire. No, non credo proprio. La Lega ha spesso fatto tentativi di questo genere. Mi ricordo lo stesso Miglio, che era stato il mentore di Bossi sotto molti aspetti e la mente pensante della Lega negli anni 90, sosteneva che gli italiani una sciopero fiscale comunque non l'avrebbero mai fatto, non avrebbero mai partecipato per la paura che poi la Guardia di Finanza arrivasse a casa. Lo ricordo perfettamente e gli stessi leghisti secondo me ne sono assolutamente consapevoli. Mi sembra più interessante da questo punto di vista l'atteggiamento che stanno prendendo alcuni sindaci del nord-est, sì, quelli che appunto stanno attribuendo non più a Equitalia ma ad altri enti la riscossione dei tributi. Sì. I comuni de-equitalizzati. Hanno iniziato a Calalzo di Cadore, oggi sul fattoquotidiano.it c'è un focus su questo, ma sono vari comuni effettivamente che si spingono a questo. Vorrei da Rinaldo Gianola, ecco, l'aspetto sia Lega e sia Monti, che su questo si è molto arrabbiato Rinaldo, cioè dice attenzione, non scherziamo, anche la proposta di Alfano, che mi sembrava una proposta abbastanza che andasse incontro per esempio agli imprenditori, quelli che vantano crediti con lo Stato, ha detto Alfano, si scalino a loro le tasse fin tanto che non recuperano questo crediti, visto che lo Stato non paga o paga quando vuole, a 700 giorni anche, casi estremi. Monti si è molto arrabbiato, ha detto queste proposte sono assolutamente indegne, si è detto sdegnato, rischia anche politicamente Monti su questo, Gianola? Ma sai, il governo rischia se i partiti che lo sostengono, perché insomma questo è un governo nato senza una maggioranza politica elettorale, ma si è trovato in Parlamento una maggioranza che sostiene un governo che di fatto è un governo di emergenza, no? È un governo di impegno nazionale per salvare l'Italia, come è stato più volte detto. Ma comprendo benissimo che Monti si sia arrabbiato di fronte a queste proposte, a provocazioni politiche sia della Lega e sia di Alfano. Insomma, nel momento in cui Monti pone come obiettivo principale, diciamo, la sistemazione dei conti italiani, nessuno può pensare di fare autonomamente, cioè gli imprenditori che possono compensare crediti e debiti con lo Stato automaticamente, oppure la Lega che propone di boicottare l'IMU. In questo naturalmente la reazione del Presidente del Consiglio penso che sia comprensibile. Quello che è difficile oggi, diciamo, interpretare da un punto di vista politico e sociale è che cosa voglia fare veramente il governo Monti, però per, come dire, puntare anche su altri obiettivi che sono fondamentali. Insomma, da qualche giorno si parla con insistenza su tutti i giornali, nell'opinione pubblica, della necessità della crescita, di porre l'accento sulla crescita, che l'Europa deve cambiare passo, però nei fatti non si vede niente, cioè sì, parliamoci chiaro, non ci sono provvedimenti organici che possano far pensare. Adesso pare instaurato questo asse con la Merkel, che ovviamente si sente isolata, sta perdendo forse Sarkozy, in Olanda è caduto il governo e quindi si sente isolata, pare voglia instaurare questo asse con Monti e pare voglia uscire dalla politica del rigore totale e lanciare anche sulla crescita, ecco. Però quello della Merkel temo che sia un tatticismo elettorale, perché siccome anche in Germania si vota prima in alcuni land particolarmente importanti e poi ci saranno le elezioni nazionali, ho l'impressione che anche lei senta una puzza di bruciato, perché la Germania da sola può star benissimo, per carità, ma deve fare i conti poi con i suoi partner europei. Lì la Francia, da quanto si è capito, comunque sta andando in un'altra direzione, poi vedremo come si configurerà il quadro politico francese tra una settimana. In Italia comunque, insomma, la situazione è veramente magmatica, è preoccupante da questo punto di vista. E, insomma, piace o non piace, in qualche modo Monti ha rimesso in carreggiata il paese, però adesso siamo in una situazione veramente... Sì, resta da dire a che prezzo l'ha rimesso... Ma questo è un prezzo che purtroppo noi italiani dovremmo ricordarci che abbiamo già pagato in passato, no? Vi ricordate le stangate del 92, quelle del 2099-2000 per Centrale Europa, perché altrimenti saremmo rimasti fuori. Insomma, è tutta una situazione sempre d'emergenza Tra l'altro un'altra situazione d'emergenza, tra poco ne parleremo, è quella del lavoro, perché ieri era anche il 1° maggio, però vorrei tornare su un altro tema molto caldo sentito dagli italiani con Maurizio Tortorella e Rinaldo Gianola. Italia, la spesa pubblica. Cosa ne pensate fuori dai denti e fuori anche dalle ironie? Perché io l'ho definita, la Spending Review, la definisco una supercazzola, quella che ci stanno propinando. Per cui ci voleva un supercommissario, no? Enrico Bondi, Maurizio Tortorella, supercommissario per una supercazzola. Al di là di questo, le ironie sono anche su Giuliano Amato, che deve tagliare le spese dei partiti, e fanno notare che percepisce circa 30.000 euro di pensione al mese. Ci voleva un super tecnico che commissariasse i tecnici, perché i tecnici non ce la fanno, i politici non spendiamo neanche mezza parola per tagliare la spesa pubblica, Maurizio? Ma guarda, è la dimostrazione plastica che questo paese ha evidentemente un difetto di meccanismi istituzionali di governo. Il fatto che perfino i tecnici, circondati dall'aura appunto dell'antipolitica, e che in qualche maniera li protegge e li difende anche dalla maggioranza che li sostiene, formata da un centrodestra e centrosinistra insieme, gli stessi partiti che fino a 10 giorni prima si affrontavano litigando disperatamente, debba affidarsi a un signore di 78 anni, per carità bravissimo, che ha fatto cose egregie nella sua vita, tra le quali risanare la Parmalat, che aveva lasciato un buco di 14 miliardi di euro e l'ha restituita, purtroppo poi facendola cedere ai francesi con una liquidità di cassa di 1,4 miliardi, quindi in 10 anni, quindi un risultato strepitoso. Ma il fatto che debbano cercare un signore abile a tagliare è sorprendente. Poi le aziende, poi si occupa soprattutto di risanamento aziendale, Bondi. Uno Stato e la spesa pubblica è una cosa diversa. Piero Giarda è il ministro che si occupava della cosiddetta spending review, cioè di capire dove si dovesse tagliare, dove si debba tagliare. È stato per più di 10 anni il grande tecnico italiano del debito pubblico, quello che analizzava, sapeva, conosceva perfettamente la situazione. Prima con Padoa-Schioppa, poi con Tremonti. Forse l'uomo, il tecnico italiano più addentro alla spesa pubblica e quindi il più competente. È sorprendente davvero la scelta operata da Monti. È come se in questo paese non si riesca a fare assolutamente nulla se non c'è un commissario straordinario. Del resto, devo dire, questo è stato dimostrato in più aspetti e in tantissimi settori della nostra vita pubblica. Pensiamo che cos'è stata la protezione civile, che ha funzionato egregiamente fino a quando c'era il commissario straordinario Bertolaso, e poi dopo è scomparsa nel nulla. No, ma infatti devo dire che la scelta sorprende un po'. Ha sorpreso anche Susanna Camusso, la leader della CGIL, che tra l'altro l'altro ieri Rinaldo Gianola ha intervistato. Ieri, Rinaldo, c'era la tua intervista sull'Unità proprio a Susanna Camusso, che poi ieri ha dichiarato sorprende questa scelta, no? di tecnici che chiamano un tecnico. Ne usciremo fuori da questa spending review oppure sarà solo una partita di giro per poi non fare nulla di concreto? Ma la spending... Parlo io? Scusate. Sì, vai Rinaldo. No, scusa, no, ma insomma, la spending review, da come si è vista in queste settimane, è una bella definizione per fare i titoli sui giornali o i titoli del TG1, insomma, ma poi di fatto, parliamoci chiaro, di cosa si tratta? Di qualcuno che deve verificare se ci sono delle spese da tagliare, non che debbano essere tagliate, ma che si verifichi dove c'è la possibilità di tagliare qualche cosa. E allora si tagliano i generali, si tagliano le auto blu, se c'è, tutti i colori. Quello che sorprende, diciamo, nel Consiglio dei Ministri dell'altro giorno è che il governo ha nominato nuovi altri tre commissari, sì. Non dimenticate il professor Giavazzi per gli aiuti alle imprese, Amato, Giavazzi, appunto. Giavazzi che c'è sempre di mezzo, Giavazzi, Amato, sono sempre quelli poi che girano, no? Cioè Giavazzi, che era stato duramente attaccato ultimo, ricordo perfettamente, qui a Milano dal presidente Monti. È stato chiamato. È stato chiamato. Quella però è una scelta coraggiosa, se vuoi. Cioè, ha chiamato una persona, non una persona, voglio dire, azzerbinata. Ecco, una persona. Ho capito, ma è tutta una partita di giro. Cioè, questi si trovano lì, alla sera vanno a cena, vanno nei loro salotti, discutono di massimi sistemi, poi il giorno dopo si nominano commissari straordinari del governo. Allora, adesso al di là delle battute, insomma, io penso che il professor Giarda sia certamente in grado di fare la spending review, cioè l'hanno chiamato per quello, altrimenti non c'è bisogno di chiamare Bondi, scusate. Da solo poi, poteva farcela, sì. Non so se avete voi mai avuto rapporti professionali con il commissario Bondi. Io no, personalmente. So che ha un carattere molto ruvido, questo. No, ma quello sarebbe anche un merito. Bondi, ad esempio, è uno che non parla, cioè, no? Quindi vive nei suoi segreti, nelle sue condizioni di riservatezza estrema, così, che va tutto bene, ma quello adesso ha una funzione, diciamo, possiamo dire politica, sì, anche politica, sì. Insomma, anche no? Se pare che già siano terrorizzati a Roma per il noto cipiglio di Bondi di dire prendo, faccio e non guardo in faccia a nessuno. Ma guarda, a Roma erano terrorizzati anche quando era arrivato Tremonti, quindi poi le cose cambiano velocemente. Cambiano in fretta, guarda, per no, il clima di Roma. mi sembra che il governo debba veramente battere un colpo forte sulle cose concrete, cioè dite se è possibile ad esempio allentare un po' la pressione fiscale sui salari, sulle pensioni, sui redditi delle imprese affinché si favoriscono un po' i consumi, ci sia un segno di sollievo anche per le famiglie che in questo momento soffrono tantissimo. No, ma infatti c'è una condizione sociale veramente drammatica. Ah, questo non c'è dubbio, noi ripeto la tocchiamo con mano tutti i giorni. Allora, vorrei chiedere a Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, che effetto ti fa, e poi anche a Rinaldo Gianola, che effetto ti fa la Fornero che dice manca il lavoro, non è un bel primo maggio? Lo stesso ministro Fornero che non è stata invitata al concertone perché, parola di Bonanni, abbiamo già abbastanza di cui piangere. Discreta battuta anche, ovviamente. Che effetto fa Maurizio Fornero che dice manca il lavoro, è un triste primo maggio? Fatto del lavoro è una triste constatazione, direi. Oltre a questo non credo che si possa andare. È il ministro delle lacrime, evidentemente. Però il ministro della riforma, anche di quella riforma accusata dai sindacati di essere quella che non vuole poi rilanciare il mercato del lavoro. Sì, è una riforma che era partita con una certa direzione, poi è stata rintuzzata in varie direzioni e poi uscita praticamente dimezzata, quindi assai poco efficace secondo me dal punto di vista delle assunzioni. Sì, ecco, l'unica cosa positiva, ha sfoltito una serie di figure di contrattuali che erano diventate un moloch assolutamente incomprensibile. Sì, il troppo numero di contratti. Esattamente. Però è un ministro che ha fatto bene all'inizio sulla riforma delle pensioni e poi dopo si è persa per strada. E anche qui il governo Monti sta dimostrando seri problemi proprio di realizzazione. Tra l'altro il governo continua a sostenere di aver fatto molto, di aver posto per esempio un tetto alle retribuzioni dei manager del settore pubblico, il tetto dei 293 sì. euro annui. In realtà questo non è vero. Su Panorama in uscita domani abbiamo analizzato la questione e abbiamo scoperto che in realtà il tetto si applica in pochissimi casi. Ah, beh, interessante, no? Perché questo infatti era passato in carriera, cioè dice è entrato in vigore, invece domani su Panorama leggeremo che non è così. Sì, faccio un po' di pubblicità. No, beh, mi sembra giusto. L'hai anticipato, ti avevi chiesto l'apertura, ovviamente. È un dato di fatto inequivocabile, tanto è vero che se ne sono accorti in Parlamento. C'è il deputato Cazzola, ci sono due commissioni parlamentari al lavoro per cercare di emendare l'errore contenuto nel decreto Salva Italia e poi nella sua... Quindi insomma questo è il primo problema. Rinaldo Gianola, tu che hai parlato con Susanna Camusso l'altro ieri, ma qual è la sensazione dei rapporti anche personali tra la Camusso e Fornero? Perché di recente c'era stata quell'uscita, secondo me non molto felice, anche di Susanna Camusso, che aveva detto non vada alla legna il ministro Fornero perché la troviamo una provocazione. Qual è? I rapporti penso che non siano, diciamo, lineari e molto propositivi, perché ma adesso con la Camusso, per carità, ma penso anche con gli altri sindacati che pur magari avevano un atteggiamento iniziale diverso. Perché insomma c'è stato secondo me un vulnus iniziale su cui CGIL e CISL e UIL si sono sentite un po' ferite, ed è stata la riforma delle pensioni fatta praticamente tra la sera e la mattina senza discuterne con nessuno, e che ha avuto un impatto forte sulla vita delle persone, di milioni di persone che si sono viste allungare, diciamo, l'età lavorativa da tra i 5 e i 7 anni. Ma in più c'è stato il caso drammatico degli esodati, cioè il ministro Fornero porta la responsabilità enorme, secondo me, da un punto di vista sociale e politico, di aver fatto una riforma delle pensioni senza contare alcune centinaia di migliaia di persone, di lavoratori, donne e uomini, che si trovavano in quella condizione che sappiamo, cioè di non poter più accedere al proprio posto di lavoro, di essere accompagnati verso la pensione, ma di non essere ancora in pensione. Quelli sono lavoratori che avevano, diciamo, accettato un accordo con le loro aziende, mediato dal sindacato, dalle organizzazioni imprenditoriali. Il governo se n'è bellamente fregato. Ed è questo stato, secondo te, il punto di rottura? Ma questo è il vulnus iniziale, cioè i tecnici che vengono, fanno quel cavolo che vogliono, non ascoltano nessuno, e poi ci troviamo in questa situazione. In più, tieni presente che questa iniziativa sulle pensioni è stata accompagnata dalle proposte iniziali della Fornero sul mercato del lavoro, in cui si era parlato addirittura all'inizio di cancellare la cassa integrazione, almeno quella straordinaria, per immediatamente, e poi di avere l'assicurazione tra 3, 4, 5 anni. E anche lì, diciamo, la sensibilità sociale evidentemente è stata diversa tra i sindacati. No, ma questo, certo, i rapporti adesso non sono... I rapporti, secondo me, non sono molto buoni, raffreddati. No, ma anche lo stesso Bonanni, che appunto dice questa battuta, non invitiamo a Fornero, abbiamo già motivi per piangere, insomma, calcando sulle lacrime ormai celebri del ministro, è una battuta abbastanza emblematica. Allora, io devo chiudere, ma Maurizio Tortorella, ci puoi dire l'apertura di Panorama? Io non so se si poteva svelare, ma la copertina di Panorama domani in 10 secondi, sì o no, si può dire? Possiamo dire che c'è Angela Merkel. Ah, vabbè, c'è Angela Merkel, allora si parlerà di crescita, ovviamente, e rigore. È una copertina positiva nei confronti del primo ministro tedesco. Grazie. Allora ringrazio Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, e Rinaldo Gianola, vice direttore dell'Unità, per questa rassegna stampa commentata, visto che, come ripeto, i giornali non li trovate oggi in edicola 2 maggio. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Gli italiani e le tasse, di questo parliamo oggi. 349-238-6666 se volete mandarci messaggi. Lo facciamo intanto con un avvocato di Napoli, Gennaro De Falco. Avvocato, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Lei è diventato abbastanza celebre negli ultimi tempi. Inaspettatamente. Lei fino a poco fa faceva parte di un gruppo di avvocati che in Italia difendono Equitalia nelle cause contro gli italiani. Quindi sappiamo di cosa stiamo parlando, della riscossione dei tributi nei confronti degli italiani. Poi ha deciso qualche giorno fa di dire basta. Perché? Guardi, il codice deontologico impone all'avvocato, allorché non sia convinto di poter continuare a perseguire un incarico, di abbandonarlo. Succede spesso nei processi penali, succede in varie situazioni. Ormai la situazione si era fatta pesante, si era fatta gravosa, c'era stato il suicidio, che poi fino a che punto sia da porre in contatto, in relazione con le vicende della riscossione, è tutto da vedere, ma comunque per me è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Cioè il suicidio, ricordiamo, il suicidio di Diego Peduto, un imprenditore immobiliare di Peduto, 52 anni, che lei conosceva. Io lo conoscevo, abitavamo, diciamo, erano vite abbastanza parallele, nel senso che stavamo nello stesso quartiere, mi aveva venduto una casa, avevamo figli coetanei, frequentavamo lo stesso circolo, ho scoperto successivamente, cioè alla fine la cosa è diventata gravosa. Io ho inteso dare un segnale che non è riferito all'attività professionale con Equitalia in senso stretto, ma che è riferito al problema fiscale che ormai veramente viene visto dagli italiani. Cioè, lei ha voluto lanciare questo gesto, come dire, c'è talmente tanta disperazione che lei ha toccato. No, la disperazione è terribile, guardi, io quello che sto scoprendo dopo le telefonate che sto ricevendo sono veramente telefonate di gente terrorizzata, angosciata, disperata. Il problema non è Equitalia, Equitalia riscuote, il problema è che ci sono una serie di enti impositori i quali, chi per un verso, chi per un altro, chi giustificatamente, chi un po' meno, hanno bisogno di finanziarsi, e questo finanziamento poi confluisce lì e si creano certe situazioni. Ma lei, senza voler entrare nei dettagli, anche perché la deontologia le impone di non farlo, ma ha toccato con mano che c'è una sorta di aggressività proprio nei confronti di accanimento nei confronti del cittadino da parte? Guardi, io questa aggressività e questa io ho toccato con mano uno spaventoso malcontento, questo a prescindere dal rapporto, diciamo, professionale in senso stretto, e l'ho toccato con mano soprattutto dopo. Prima lì per lì, francamente, io non mi rendevo conto di questa situazione, ma gli italiani veramente hanno accumulato un senso di risentimento, cioè veramente un'assoluta incomunicabilità. Io mi sono reso conto tra cittadini e Stato, cioè gli italiani veramente si sentono oppressi, si sentono, c'è un rapporto, c'è un termometro, io ho ricavato da questa vicenda, che veramente mi ha lasciato sbalordito. C'è un distacco completo tra cittadino e istituzioni, cittadino e Stato. I cittadini veramente vedono lo Stato come un nemico, e io mi sono trovato alla fine noto, senza immaginare minimamente la notorietà che ne sarebbe derivato da una scelta tutto sommato emotiva e non improvvisa, che mi ha veramente stupefatto. Cioè lei ha deciso io non posso più rappresentare Equitalia, cioè quello che in quel momento rappresenta lo Stato, una società pubblica che discuote. Quello che in quel momento rappresenta lo Stato, e ho scoperto che tutti gli italiani si sentono contro lo Stato, guardi. Migliaia di mail, decine di migliaia di condivisioni su Facebook dell'articolista Marisa La Penna, che avevo pubblicato questa lettera, che io non sapevo neanche minimamente che fosse stata pubblicata. Sul Mattino. Non immaginavo che sarebbe stata pubblicata, se ne mandano tante, mandai due righe in quel pomeriggio colpito da questa tragedia, perché poi insomma tutto sommato appunto stesso quartiere, quasi coetanei eccetera, apri di cielo, mi sono trovato canale 5 sotto il tribunale. Però avvocato Le Falco, il problema è questo, il problema è questo, che Equitalia fa il proprio lavoro, molte persone anche, molte non hanno potuto pagare le tasse, altre non hanno voluto pagare le tasse. Quindi non ci sono solo le tasse, ci sono riscossioni. Sì, certo. Certo, e quindi Equitalia, diciamo, manda queste cartelle e fa il proprio lavoro, diciamo, di esattore. Lei però perché, al di là del fatto del suicidio, che è una cosa che l'avrà colpita ovviamente emotivamente e personalmente, perché ha deciso di dire ora basta, cioè se è raggiunto questo livello di saturazione per cui non posso più rappresentare? Per questo motivo per cui molti avvocati non difendono la parte civile, altri non, nei processi penali, perché ritengono, secondo me assolutamente ingiustificatamente, che non vada fatto, altri non difendono i collaboratori di giustizia, altri non fanno processi di criminalità organizzata. Chiaramente non sto paragonando assolutamente, no, perché in realtà io appunto le ho indicate in maniera assolutamente eterogenea. Io non mi sento più di sostenere un certo ruolo in una situazione di allarme sociale così grave, anche perché se si manda un segnale forte, per me oneroso, in una certa fase, magari si impedisce un domani che questo consenso si trasformi in maniere tali per cui magari il passo indietro lo fa il soldato, lo fa il carabiniere, perché guardi che qui io veramente ho la sensazione che questa disperazione rischia di trasformarsi in esasperazione, e anzi è strano che ancora non sia successo, perché è assolutamente generalizzata. Io non la immaginavo, guardi, io ho continuamente sms di amici che mi fanno i complimenti, colleghi che mi fanno i complimenti, telefonate di persone assolutamente disperate che non conosco, che mi chiedono di assisterli. Io dico che non li posso assistere perché sono in una fase transitoria e comunque probabilmente non li assisterei comunque, perché appunto poi sembrerebbe che uno approfitta di una tragedia per ricavarne un profitto professionale, e non è assolutamente questa la mia intenzione, la mia speranza, il mio progetto. E quindi alla luce di questo discorso però si apre, diciamo, la finestra su un baratro, cioè mi chiamò una signora di Torino che poi mi ha richiamato, poi non ho richiamato, le dico la verità, era veramente terrorizzata, mi ha raccontato una storia anche abbastanza nel senso doveva dare dei soldi, nel senso che lei doveva delle tasse perché praticamente c'erano gli studi di settore, lei non rientrava negli studi di settore, sì, perché un classico, non andava, è un classico, stavano vendendo la casa, lei non aveva come pagare, le banche le avevano tagliato il credito, erano, guardi, terrorizzati, disperati, piangevano, vengo a Napoli, signora, ma viene a Napoli, ma è come andare in pellegrinaggio, cioè io che faccio? Che posso fare? Non lo posso fare come ruolo e non ne avrei il potere, quindi la povera signora secondo me è rimasta ancora più disperata, che la gente è vero, si attaccherebbe a tutto. È certo, è vero che ci sono altri avvocati come lei che o hanno deciso, che ci sono stati, o stanno, io adesso non ne conosco le motivazioni, mi è stato detto, ma ripeto, sono voci, io non ne ho un riferimento diretto, quindi non le so dire, insomma. Ma ripeto, io non immaginavo assolutamente che si sarebbe verificato quello che si è verificato. Quando io ho scritto quelle due righe, ho visto subito un interesse tale per cui francamente ho fatto un passo indietro, ho cercato anzi addirittura di frenare la cosa che non cercavo, non immaginavo, mi imbarazzava, mi dava fastidio, non prevedevo le conseguenze di questa cosa che poi si verifica normalmente. Appunto, ho visto in processi tanti avvocati rinunciare a processi quando, certo, per ragioni di coscienza, quando non ritenevano di poter difendere bene il loro cliente, perché il dovere dell'avvocato è difendere bene il cliente, ma per difenderlo bene ci devono essere delle condizioni. No, per concludere, per concludere, avvocato, lei ricorda tra i vari processi che ha fatto, senza nominare appunto niente, la situazione nella quale si è sentito più a disagio nel rappresentare Equitalia? Allora, io, proprio perché ho un obbligo di riservatezza che ho sottoscritto, non posso rispondere a questa domanda. Quindi verificato, a prescindere dalle situazioni in cui ho difeso Equitalia, una situazione di estrema tensione nelle aule, questa sicuramente sì, ho visto colleghi spaventatissimi, ma questo a prescindere dai processi che ho patrocinato, ma ho visto gente che per pochissimi soldi veramente era terrorizzata. Se uno si terrorizza tanto per pochi soldi, vuol dire che i soldi proprio non li ha. Se uno si fa mettere la ganascia alla macchina e quindi non può guidare la macchina, non può portare i figli in vacanza ed è un professionista, perché guardi che qui il guaio è che la nostra categoria è una categoria senza voce. Io sento continuamente il sindacato, l'altro sindacato, sì, che sì, parla dei problemi dei lavoratori dipendenti, per cui ho il massimo rispetto, però dei problemi del lavoro autonomo, dei problemi dei professionisti, dei problemi degli avvocati, degli architetti, anche di tanti giovani medici, dei farmacisti che non hanno farmacia, non c'è voce che dica. E le posso garantire che il disagio lì è terribile, e in certi contesti lì ho trovato la massima sofferenza sociale. Io intanto, cioè, paradossalmente c'è stata proprio un'inversione della realtà che mi pare non sia assolutamente percepita e che non abbia una voce. Intanto, avvocato, la ringrazio per essere stato con l'avvocato Gennaro De Falco di Napoli, che insomma ha deciso di non difendere più Equitalia per i motivi che ci ha spiegato. Ma noi italiani e tasse ne parliamo, se c'è una tassa forse più, possiamo dire questa parola, odiata dagli italiani in questo momento e più al centro anche dell'attenzione politica, questa è l'IMU, la tassa che ha sostituito l'ICI, sta creando problematiche politiche non indifferenti. Sindaci della Lega promettono obiezione fiscale o resistenza fiscale, disobbedienza fiscale, chiamatela come volete. Secondo voi questa è la strada giusta? 24 mattino alle 8:35 minuti, allora eccoci qua a parlare di IMU, l'imposta municipale, la ex ICI, quella che ha creato anche delle polemiche, sta creando delle polemiche, di diatribe politiche non indifferenti con il presidente del Consiglio Mario Monti, che ha detto il nirvana è finito, cioè questa realtà anestetizzata in cui non si vuol prendere conto con i fatti. E i fatti per il premier Monti sono che l'ICI non andava tolta, e quindi qui c'è l'accusa del governo Berlusconi, e quindi adesso gli italiani sono costretti a pagare l'IMU. Ci sono dei sindaci, per la verità soprattutto sindaci della Lega, che ieri con il ministro Maroni, l'ex ministro Maroni, ha definito il pizzo di Stato l'IMU, invitano alla obiezione fiscale, alla resistenza fiscale, alla disobbedienza fiscale. Ne parliamo con i due sindaci, il sindaco di Varese della Lega, Attilio Fontana. Buongiorno sindaco, ben ritrovato. Buongiorno. Eccoci a lei, qua. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Anche presidente dell'ANCI Lombardia, e saluto anche Guido Castelli, che è il sindaco di Ascoli Piceno e fa parte dell'ufficio di presidenza dell'ANCI, quindi la presidenza dei comuni, l'associazione dei comuni. Buongiorno sindaco Castelli, eccoci qua. Buongiorno a tutti e buongiorno ad Attilio. Allora, Attilio Fontana, partiamo dunque, da qui. Subito con cos'è sta storia della disobbedienza? Ma dunque, prima vorrei sottolineare però una cosa, che questo governo è bravissimo nel raccontare bugie, è bravissimo nel cercare di rappresentare con quest'aria seria e greve del suo presidente, che sembra un oracolo, dice delle cose false. L'ICI con l'IMU non c'entra assolutamente niente. Ridateci l'ICI, va sì, benissimo, accettiamo l'ICI. L'IMU è tutta un'altra cosa. Perché quindi l'ICI rimaneva ai comuni? Ma invece, prima di tutto perché l'ICI rimaneva tutta ai comuni, secondo perché è stata rivalutata in una maniera eccessiva, e quindi sono due cose completamente diverse. Però il dato di fatto è che sono, vedendolo dal punto di vista dei cittadini, è una tassa sulla prima casa. Poi dopo dove vadano i soldi, diciamo. No, ma è un aumento della tassa sulla prima casa. Vabbè. Assolutamente esagerato e insostenibile. Vede, perché il secondo grave errore che commette, e mi sembra che un governo di professori stia commettendo troppi errori, il secondo grave errore è che anche le simulazioni di incasso risultano assolutamente sbagliate. Noi come ANCI l'avevamo denunciata questa cosa, recentemente anche un quotidiano finanziario italiano ha evidenziato come i conteggi dello Stato siano superiori, le previsioni di incasso siano superiori del 30%. Qui vuole dire che a Natale i cittadini si devono aspettare un'ultima tranche disastrosa, perché il governo, che vuole incassare i suoi 21 miliardi, aumenterà l'aliquota per arrivare a quella. Però Fontana, vediamo di capire. Intanto io ho seguito con attenzione quello che ha detto Maroni riguardo alle modalità. Questa disobbedienza fiscale cosa vuol dire? Me lo dica in pratica. È vero che deciderete, credo, il 24-25 maggio i sindaci, i leghisti, cosa fare? Il 24 maggio l'ANCI, per dimostrare come questa contestazione non venga soltanto dai comuni della Lega, ma venga in maniera assolutamente trasversale da tutti i sindaci, tant'è vero che recentemente anche Pisapia ha ribadito la propria opposizione a questa imposizione. Il 24, dicevo, ci sarà una grande manifestazione dell'ANCI, il 25 ci sarà una riunione di tutti i sindaci che vorranno partecipare, sono invitati tutti, non c'è nessuno che è escluso, in cui discuteremo e ognuno farà delle proposte di come fare. Sì, però l'aspetto è diverso, poi ce lo spiegherà Alessio Castelli, cioè siete su due punti diversi. Anche Pisapia, che ha detto l'IMU è sbagliata, cioè una tassa percepita come è sbagliata davvero da tutti i sindaci d'Italia, però poi le forme di contrasto sono diverse. Voi della Lega vi siete spinti a dire facciamo la disobbedienza, cioè tecnicamente cosa vuol dire? Mi pare che si può fare, mettiamo l'aliquota a zero. Ma guardi, e quindi ci sono una serie di ipotesi che stiamo valutando e che saranno sicuramente esaminate. Ma tra queste c'è da dire anche ai cittadini, cioè lei direbbe ai cittadini di Varese non pagate il 16 l'IMU? Tutto dipende soltanto da una scelta. Se il dire non pagate l'IMU comporterà delle conseguenze esclusivamente sui cittadini, che verranno considerati degli evasori, non lo dirò. Beh, credo di sì, credo. Se invece troveremo una soluzione che escluda ogni tipo di responsabilità di carattere amministrativo e magari anche penale nei confronti dei nostri cittadini, allora a quel punto potremo dire ai cittadini non pagate l'IMU. Quindi è un'opzione in campo a dire va bene. Sentiamo, questo è un primo punto di partenza. Guido Castelli, come detto, sindaco di Ascoli Piceno, rappresenta anche l'ANCI, che è contraria certo all'IMU, ha delle criticità nei confronti dell'IMU, delle critiche, però come la vede questa estremizzazione di arrivare a dire la disobbedienza fiscale, Castelli? Ovviamente se si intende la disobbedienza fiscale come un atto illecito di contrasto a delle leggi che produce, da un lato, come diceva Attilio Fontana, una possibile conseguenza sui cittadini, dall'altro anche sull'erario comunale, io penso che bisognerebbe pensarci davvero due volte prima di generare questo tipo di clima che, ripeto, forse tradisce anche qualche conseguenza relativa al fatto che siamo in una settimana particolare, una settimana di voto amministrativo anche più particolarmente importante. La realtà dei fatti è che noi comuni, lo ripeto perché credo che sia questo il punto nodale, siamo assolutamente indignati per il fatto che si sia assegnato l'onere politico di una vera e propria patrimoniale occulta ai comuni. Perché vedete, la differenza tra RICI e IMU è molteplice, ma ce n'è una che più di ogni altra questione credo possa consentire ai cittadini di percepire davvero quanto siderale la distanza tra l'ICI e l'IMU. L'ICI nel 2010 ha prodotto nelle casse dei cittadini 9 miliardi e 200 milioni di incasso. L'IMU, questa IMU, che è, io l'ho detto anche scherzando, una sorta di ICI geneticamente modificata, porterà 21 miliardi e 4, o meglio, lo Stato ha stimato che debba necessariamente produrre questo gettito, ma come diceva Tilio Fontana, il rischio concreto è che abbiano sovrastimato questa cifra. E non è finita qui, perché sovrastilandola l'hanno però già inserita indefettibilmente nel bilancio dello Stato. E quindi bisognerebbe aumentare, no, mi sta dicendo che aumentano le aliquote, aumentano le tasse. È come se fosse un vincolo che comunque, sì, al cospetto di Sua Maestà la signora Merkel, noi abbiamo comunque inserito nei conti dello Stato. E quello dobbiamo rispettare, quella cifra dobbiamo ora racimolare. Un piccolo, mi scusi, perché è un particolare di non trascurabile interesse, che comunque noi comuni, a fronte di quello che saremo come IMU, abbiamo avuto anche corrispondenti tagli ai trasferimenti dello Stato. Quindi anche quando si dice che la prima casa vada a appannaggio esclusivo e totale dei comuni, si dice una cosa non esatta, proprio perché a fronte di quell'introito vi è comunque un taglio analogo e proporzionale, anzi forse superiore, dei nostri trasferimenti. Ma questa è chiara, l'indignazione anche l'ANCI, so che con il presidente Del Rio ha annunciato appunto per il 23-24 maggio delle iniziative contro questa tassa, che è percepita come odiosa dagli italiani ma anche dagli enti locali, sentite da due sindaci, percepita come odiosa. Però io, Fontana, tornerei su questo punto, cioè non si può eludere alla critica di dire voi facevate parte di quel governo, e questo l'ha detto Monti non con queste parole, ma il senso è questo, quel governo che ha creato questa situazione. Adesso se la si prende con l'IMU, ma voglio dire, se uno toglie l'ICI, se uno toglie, noi siamo frutto di una situazione, e siamo qui da 6 mesi, abbiamo ereditato questa situazione, non è che si può far finta di niente. Ci sono due piccole considerazioni. La prima, la più importante, è che il governo Monti, a fronte di questa situazione, che è una situazione che deriva da anni e anni di situazioni che si sono sovrapposte, invece di andare a cercare di cancellare quelle che sono le spese inutili, improduttive, quelli che sono gli sprechi di questo Stato, è andato ad aumentare la spesa del governo centrale, diciamo la spesa della macchina pubblica centrale. Se è vero come è vero che a fronte di 15 miliardi di risparmi posti a carico degli enti locali e della Previdenza, la macchina centrale quest'anno costerà 3 miliardi e 250. Adesso arriva il supercommissario, stia tranquillo. Io dei supercommissari mi fido molto poco, anche perché era stato già nominato commissario professor Giarda, il quale professor Giarda, che ha buona memoria, si dovrebbe ricordare che nel 1981 era stato messo a capo di una commissione che avrebbe dovuto andare a tagliare i costi. Accidenti, no, io mi ricordo che era consulente di Padoaschioppa e di Tremonti su questo tema. Lei affonda addirittura nel 1981. Bisogna andare a cercare quelle carte. Il professor Giarda ha prodotto questi risultati che abbiamo tutti quanti sotto gli occhi. Beh, adesso non è la colpa, adesso dare la colpa a Giarda. No. Anche a Giarda. Lui è stato il commissario, quindi ha qualche responsabilità in più, perché aveva un compito specifico, gli altri ne avevano più differenziati. Ma al di là di quello, voglio dire, quando si vanno a scegliere degli altri consulenti esterni in un governo di consulenti, perché questi sono i cosiddetti esperti, mi lascia intendere che sia il sistema classico per non tagliare assolutamente niente. Oltretutto il dottor Monti, persona di grandissimo valore, di grandissima rispettabilità, non ha mai avuto niente a che fare con il pubblico. No, infatti, quindi, ha sempre risanato aziende, Quindi dovrà iniziare anche a guardare un bilancio diverso da quelli che lui ha. Ma che lo faccia, cioè se lo fa, noi diamo credito assolutamente a Enrico Bondi. Certo, effettivamente ha fatto specie a tutti la scelta di un super commissario, un super tecnico, perché i tecnici evidentemente hanno bisogno di un super tecnico. Allora, è un pizzo di Stato, lo ha definito Roberto Maroni, questa IMU. Sentiamo due ascoltatori all'800240024. Nicola da Varese, proprio la città del sindaco Fontana. Nicola, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, dica. Dottor Milan e ai suoi ospiti. Ascolti, stendiamo un velo pietoso sui commenti di Lega e PDL che ho sentito anche ieri sera, che sono stati 20 anni al governo. Adesso sembra che è tutta colpa di Monti. Entriamo nel merito. Ma qualcuno ha fatto due conti. Io, per esempio, ho fatto i conti per casa mia e l'IMU mi costa meno della vecchia ICI, no? Altra cosa è... Beh, però prima adesso non la pagava l'ICI, nel senso, ma, le costa meno, pagavo, ma... Però il mio comune non aveva i soldi, quando non la pagavo. L'unico vero difetto è questi soldi far convergerli sullo Stato. Infatti la critica dei comuni è proprio questa, che è una patrimoniale di Stato mascherata, diciamo. Dei comuni. Io sì. Non discuto la critica dei comuni, io discuto la critica dei politici sull'IMU. L'IMU, oltretutto, i valori, ancorché rivalutati come sono stati rivalutati, sono molto al di sotto dei valori di mercato. Quindi lei dice il principio di tassare la prima casa è giusto ed è stato sbagliato toglierlo. Con tutte le detrazioni, e trovo molto più ingiusto tassare, per dare per esempio la tassazione sia dell'immondizia che dell'acqua, sui metri quadri e non sulle persone. Questo lo trovo ingiusto e costa molto di più. Ma prendere sulla prima casa, tralasciamo poi la ridicolaggine di quelli che hanno seconda, terza, quarta casa e che piangono, che già, veramente già si paga. Quella si paga, insomma, l'ICI anche sulla seconda casa si pagava. Appunto, allora cosa hanno da lamentarsi? Cioè, trovo tutto molto ipocrita, ma soprattutto trovo strumentale da parte di una classe politica che ci ha portati dove siamo arrivati e osa parlare perché da tre mesi a questa parte qualcosina sembra migliorata. Cioè, io veramente, forse anche gli italiani dovrebbero reagire. Grazie, no? Nicola Davarese. Andiamo a Palermo da Paolo, buongiorno. Buongiorno dottor Milan. Dica. Ascolti, io il nostro, come dire, chi mi ha preceduto non so con quale tabelle ha fatto i conti. Anch'io ho fatto i conti e pagherò moltissimo di IMU. Più rispetto all'ICI di prima? Sì, senz'altro. Il punto è questo, e per quanto riguarda questo invito alla disobbedienza della Lega, io penso che la Lega lo sta facendo più per rifarsi una verginità, una credibilità in seguito, insomma, alle ultime vicende che ben tutti conosciamo, che veramente non gli interessi più di tanto il fatto che il cittadino paghi o non paghi. E siccome vedo che i politici sono un po' sordi da qualsiasi parte li prendi, adesso non voglio essere generalista, ma ho questa sensazione, io la disobbedienza la faccio a modo mio, nel senso, io le tasse le ho sempre pagate, pagherò anche questa volta l'IMU, sì. E per colpa dell'IMU io non potrò fare o le vacanze di estive o quelle di Natale. E quindi che disobbedienza farà? La disobbedienza, sarò un po' eccessivo, ma mi auguro quest'estate di non incontrare qualche politico di qualsiasi rango, insomma, venga di destra o di sinistra sulle mie coordinate, perché lo mando all'ospedale. No, non dica così, Paolo, io posso capire la disperazione di tutto, ma perché? Cioè, non è veramente questa la reazione giusta, se ne rende conto anche lei, capisco lo sfogo, accolgo il suo sfogo. Ma noi dobbiamo soltanto parlare, essere civili, ma nel frattempo loro si fanno. Va bene, i migliori viaggi, yacht, barche, lingottidore e tutto quanto. Capisce che però Paolo c'è un po' di qualunquismo in questo. Cioè, lei incontra il primo politico che capita. L'avevo detto anche al suo interlocutore precedentemente. Sì, quando ha chiamato prima. Queste vengono dal basso, sono tacciate di qualunquismo. Quando invece dicono si fa del qualunquismo a livelli alti, viene preso. No, ma questo senza dubbio, però Paolo, il qualunquismo, la questione del qualunquismo è dire: prendo il primo politico che capita, sulle mie coordinate lo mando all'ospedale. Cioè, capisce che voglio dire. Così almeno sanno i danni che stanno facendo. Ah, vabbè. Finché non si fanno male. Non capiscono che c'è gente che non arriva, non a fine mese, al decimo giorno del mese. Guardi, io Paolo, ripeto, condivido la disperazione sua, l'indignazione, se vuole, lo sfogo, quando arriva il concetto di dire non ce la si fa più, molta gente non ce la si fa più, i politici sono sordi alle... può essere tutto vero, mi fermo lì, ecco. Però Guido Castelli, sindaco di Ascoli Piceno, veda di informarsi dove va in vacanza Paolo da Palermo, perché... Io non so se faccio parte della categoria degli esentati, visto. Beh, insomma, è sindaco e va bene, fa politica, esatto, è sindaco. Quindi, arruolato indiscriminatamente. No, però guardi che adesso, al di là di tutto, io sono convinto che poi Paolo non farà niente se incontrerà un politico quest'estate, però non è poco diffusa la sensazione di persone che dicono ora basta, cioè la gente si sente presa in giro anche da questa politica. Assolutamente sì, e guardi, noi sindaci davvero abbiamo il polso giornalmente, non passano 10 metri dall'uscita dalla nostra rispettiva soglia di casa senza che noi incontriamo i cittadini, perché vedete, fare il sindaco, amministrare non perché qualcuno ti ha designato, perché ti ha cooptato secondo qualche strana fumisteria elettorale, è una cosa che sempre ti consente e ti porta ad avere la percezione della realtà. Ecco, noi non facciamo sicuramente parte di quella schiera di, come dire, soggetti che fanno politica che non hanno l'idea di come vadano le cose in Italia, perché le nostre stanze, i nostri uffici, le nostre anticamere sono piene di persone, sì, che ci non solo elencano ma esprimono anche condividendoli i loro problemi, che sono problemi quali quelli che venivano comunque indicati da Paolo. Una cosa però è assolutamente inaccettabile: è il primo politico, quale che sia la sua opinione, sì, ecco, sì, quando certo, si mettono le stelle sul bavero di qualcuno, allora vuol dire che siamo arrivati oltre, e quindi la colpa non è di Paolo ma certamente di una situazione che è sfuggita di mano. Però sindaco, anche però per queste scelte del governo Monti mi dica due cose flash, sindaco. Prego. Sulla questione la disobbedienza fiscale della Lega, cioè Fontana ha detto: se arriveremo a trovare un metodo per cui il cittadino non ne risponderà sia penalmente che civilmente, io potrò anche arrivare a dire, caro cittadino di Varese, non pagare l'IMU. Questo, come lei come sindaco di Ascoli e come ANCI, che ne pensa come ANCI nazionale? Ma se è vero quello che diceva il sindaco di Varese, vuol dire che non è disobbedienza fiscale, ma è adozione di un comportamento che rende lecita quella condotta, quindi vorrà dire che il comune di Varese ha operato in una maniera tale da rendere possibile quella che è una, soprattutto sulla prima casa, esenzione di fatto dal pagamento dell'ICI, da quello che almeno ho sentito, ma non voglio essere io a interpretare il collega di Varese, fra l'altro è veramente una persona di particolare capacità. Dico semplicemente che in questo momento le azioni che divergono proprio da quella che è una condotta in cui tutte le amministrazioni devono sentirsi coese, unite, perché vedete, buttar via il bambino e l'acqua sporca è il vero rischio. Allora, di fronte all'antipolitica bisogna in qualche modo generare comportamenti che vanno nel senso, sì, della virtuosità e anche del rispetto delle regole, perché vedete, una tassa, se non va bene, come non va bene l'ICI, la si paga e poi con il voto, non con altro, non, sì, con l'S24, si cambia chi l'ha introdotta. Questo è il tema su cui credo tutti si debba essere uniti. Allora, io in 30 secondi, Attilio Fontana, mi faccia fare una domanda sull'attualità. Bossi che si ricandida alla segreteria della Lega, lei come la vede? È un colpo di... Mi lasci dire una cosa, sì, prima, Guido, che ha perfettamente ragione. Il problema è che questi signori hanno introdotto la tassa, ma non sono mai stati sottoposti a nessuna valutazione elettorale, diciamo, e credo non si sottoporranno, sì, mai. Vabbè. Ecco. Però mi dica questo, che sennò poi devo chiudere e la devo sfumare. Bossi che si candida. Bossi che si candida è un'ipotesi, staremo a vedere, anche se ieri sera ha modificato la dichiarazione, ha detto mi candido nel caso in cui ciò sia necessario per evitare che la Lega si divida. Ma è un bene secondo lei, oppure bisognerebbe voltare pagina almeno questa? Credo che non si verificherà questo rischio, perché la Lega ormai è ritornata assolutamente unita e coesa. Quindi, cioè, credo che rischio? Che si possa dividere, lui ha detto, nel caso in cui ci si corra il rischio che la Lega si divida. Credo che la Lega non corra questo rischio. E quindi non c'è bisogno che si ricandidi. Non credo. Poi ascolteremo sempre con grande attenzione quello che dirà Bossi. Va bene, la ringrazio, il sindaco di Varese Attilio Fontana e il sindaco di Ascoli Piceno Guido Castelli. Ci trovate su Twitter @AlinoMilan, sono io @24Mattino, è la trasmissione. L'appuntamento a domani alle 7:20.